con Elisa Fuxas per parlare del suo docufilm Albe, A Life Beyond Earth, che sarà a Roma al Cinema Farnese 18 e 19 febbraio 2019. Elisa, ben trovata. Ben trovato, conosciuto a te. Lo descriviamo brevemente? Sì, volentieri. È un documentario, un film, che cos'è, no? Perché poi quando lo vedi, diciamo che il giudizio si sospende come di fronte a un film, nonostante tutto sia vero. Quindi direi un documentario. È un documentario di fantascienza su alieni, extraterrestri, UFO, quindi, e Dio, la ricerca di sette personaggi veri, romani, anzi, diciamo del Lazio, Roma e dintorni, che cercano quotidianamente un contatto con gli alieni, e dove gli alieni sono il mistero fondamentalmente. Loro hanno rapporti con questi esseri, cioè dicono di averne, e li trattano come parenti, come amici, come famiglia, riescono a stabilire una comunicazione che passa attraverso il cuore e non attraverso la scienza e l'osservazione, perché appunto, secondo i nostri protagonisti, per vedere gli altri, l'altro, quindi l'alieno, bisogna usare il cuore e non la testa, perché solo i puri di cuore, appunto, possono aprirsi a quel mistero lì. Quindi è anche molto poetico e struggente, se vuoi, no? Sì. Questo telescopio tipo dell'anima, e non il telescopio che conosciamo tutti, quello della scienza. Come nasce tutto? Nasce qualche anno fa ormai, forse 4 anni fa, volevo fare un film, scrivere un film di fantascienza, quello film di genere, con l'autore di questo documentario, che è Tommaso Sanzori. Però era una semplice storia d'amore, alla fine, quello che usciva fuori dai nostri sforzi, una storia d'amore tra una donna e un alieno. Forse tutte le storie d'amore sono storie di fantascienza, fatto sta che comunque ho preferito un'altra strada che mi sembrava più forte, più emozionante, che è quella della realtà, perché incontrare qualcuno che crede davvero negli extraterrestri e che ti riporta delle esperienze e che ti racconta la sua relazione con questi esseri è veramente travolgente, cioè vertiginoso, capito? Ti cambia il punto di vista anche un po' sulle cose, sulla tua vita, eccetera, eccetera. A prescindere se tu, che tu creda o meno in questo, no? Entri in una dimensione fiabesca quasi della vita, anche ingenua, naïf, tutto quello che, insomma, che richiede anche, no? La credenza. Però è anche la nascita di un mito contemporaneo, questo film, cioè racconta la nascita di un mito contemporaneo che è l'alieno. E soprattutto sono persone che trovano in questa figura il loro riscatto sociale, anche perché da che sono i meno ascoltati, perché spesso sono persone che hanno diciamo, un background, insomma, piuttosto semplice, nel senso positivo della parola, però quando diventano il punto di contatto, no? Di un dialogo interspecie, interplanetario, diventano come dei supereroi. Quindi nel film sono dei supereroi, perché hanno il potere di parlare con quelli che noi possiamo immaginare. Come li hai trovati i tuoi personaggi? Ma li ho trovati, loro hanno trovato noi, più che altro, nel senso che un pomeriggio, una domenica di qualche tempo fa, ero andata a un convegno di ufologia a Pomezia in un hotel, perché poi ovviamente quando inizi a informarti di queste cose arrivano a te in tutti i modi. E piano piano si sono avvicinati loro. Io l'ho cercati esteticamente per prima cosa, cioè quelli che avevano un volto, un aspetto, un vestito, un dettaglio, un modo di fare, di camminare. Mi attraevano, li trovavo sexy e quindi li ho avvicinati. E poi i loro amici e poi così via. E poi ovviamente non tutti sono giusti per fare un film e non sono prestati. E quindi c'è stata anche una selezione naturale. Che impressioni ne hai ricavato? da loro, dal film, a me ha Beh, cambiato il punto di vista sì. sulla vita, nel senso che dici, ma sì, perché prima di tutto ti senti molto più simile a tutti, c'è una specie di fratellanza cosmica, che sembra retorica dirlo oggi, però è come il cristianesimo dei Vangeli, capito? Quella cosa lì che ti, ma sì, perché quell'amore puro che tu dovresti avere o vorresti avere per gli esseri umani e che poi per tante ragioni, che sono l'ego, che sono l'interesse, che sono le sovrastrutture, che sono le differenze, che sono dove sei nato, le scuole che hai fatto, le lingue che parli, eccetera, eccetera, non sei in grado, no? E ti distacchi dall'altro per tante questioni che sono anche, diciamo, contestuali, capito? Al caso in cui ti trovi a vivere. Che Cioè, quindi è percorso? una grande apertura all'altro, ecco, ti apre e ti riporta un po' a una, appunto, una fratellanza che secondo me serve molto in questo momento. Percorso sta facendo il vostro lavoro? Ma è stato un film un po' strano, nel senso che ha tanti produttori, tanti personaggi. Tanto troppo tutto, e quindi ha avuto una premiere al Festival di Bologna di documentari biografi, no? E poi è stato un po' dimenticato. E ora, infine, uno dei produttori, che è K48, che fa piuttosto pubblicità di solito a Milano, è riuscito a fare questa distribuzione indipendente, quindi è andato cinema per cinema a vedere se potesse interessare. E quindi è una, diciamo, quasi una distribuzione spontanea o semi, quindi è fondamentale per il film che ci sia pubblico, no? Per cui se c'è un passaparola, se le date già previste funzionano e gli spettacoli sono pieni, si può pensare di, no? Che le sale prolunghino, che trovino uno spazio, eccetera, eccetera. Però mi piace molto questo modo, la sua vita. Alla fine, quando le cose sono finite, trovano sempre un modo poi di resistere eppure di esistere, Sul nonostante noi, no? web ci sono degli spazi dedicati a questo film? Sul web, no, non mi pare che ci siano spazi dedicati, purtroppo. Però se li possiamo iniziare, li possiamo aprire. Sì, apriamoli. Apriamoli subito. Io sono interventista in questo senso, sono pragmatica, molto concreta, quindi se si può aprire, abbiamo subito. Sì, so, più che altro per vedere il calendario di proiezioni per chi fosse interessato. Ma guarda, purtroppo non siamo abbastanza giovani per essere, capito, così precisi con quello che è il presente, ecco appunto. Però prometto che adesso facciamo quindi eventi Facebook, Instagram, bombardamenti, eccetera, ecco Perfetto. quindi. E allora ci sentiremo magari di volta in volta. Bene, così almeno ci continuiamo a parlare, che mi piace parlare con te. E allora ricordiamo intanto questo doppio appuntamento a Roma, al Cinema Farnese, 18 e 19 febbraio 2019, con Albe, Life Beyond Earth di Elisa Fuxas, e sarà presente anche il cosceneggiatore Tommaso Fagioli. Elisa, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Apri e torna a vedere il film e vieni quando vuoi, ovviamente. Ciao, grazie.